Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E purtroppo con l'Epifania tutte le feste se le portate via. Se le portate via. Allora, finita anche queste feste, adesso bisogna rimettersi un attimo in linea, dimagrire di nuovo. E a proposito di corpo, di fisico, io dico sempre che ho imparato, stando col dottor Vaira, frequentando... Che il mio fisico è perfetto. Il mio, insomma, inizia ad avere dei cedimenti, ma tengo bene, nonostante l'età. Tieni botte. No, assolutamente, noi non comunichiamo solamente con le parole, anzi... No, ma infatti io volevo inaugurare un'altra serie di articoli, cioè un'altra serie di punti. Ti ricordi l'articolo di Focus che ci ha accompagnato per 10 puntate su come avere ragione, no? Sia col cane che con le persone, usando la gentilezza. Adesso Focus. Qui abbiamo 11 cose che forse fai, ma è che i cani non piacciono, e tracceremo dei paralleli con gli esseri umani. Appunto, perché stavo dicendo che noi comunichiamo solo il 7% noi umani con le parole, quel 93% è tutto linguaggio paraverbale, quindi tono di voce, e non verbale, quindi tutti i movimenti, che con gli animali in realtà ascoltano di più non quello che diciamo, ma come ci muoviamo. Una cosa così importante che la gente a casa dice: cosa? Cioè, noi esseri umani comunichiamo a parole solo per il 7%, ma se parliamo in continuazione. Appunto. Allora, questa è una ricerca fatta molto tempo fa dal professor Mehrabian, il quale ha rilevato questa cosa. Bisogna dare il dato, perché certo, sennò la gente dice: ma come se ne escono questi solo il 7%? Il mio professore, vedete come è preparato il mio Ramondo Vianello? Ebbene, il primo punto, cioè usare le parole più che il linguaggio del corpo, è qualcosa che effettivamente noi facciamo spesso e che i cani non piacciono. Allora, al nostro linguaggio non verbale, che guardano con maggiore attenzione i cani, in realtà il cane ci guarda veramente perché è uno specialista nell'interpretare le nostre espressioni. Sì. Spesso i cani o i gatti si accorgono di qualcosa prima ancora che noi possiamo realizzarlo consciamente. È imparato a rispondere con coerenza ai gesti che compiamo, quindi il cane osserva molto di più. Uno, quando io spesso diciamo, quando c'è un cane: madonna, sembra che sappia che sto per uscire. In realtà lo sa perfettamente, perché ti osserva. Quindi ai cani piace, i cani sono molto più attenti a quello che noi facciamo piuttosto che a quello che diciamo. Ecco perché un buon proprietario di cane, che è sempre questa parola proprietario che a noi non piace, però un compagno umano di un cane, esatto, dovrebbe esercitarsi e allenare la consapevolezza del proprio corpo, perché col corpo e con il paraverbale, cioè con l'intonazione, il volume, no, della voce, che comunica maggiormente. Quando noi diciamo al cane: chi c'è? Questo tono, in questo modo, comunica al cane che cosa sta succedendo, no? Se tu dici ad un cane seduto oppure gli dici imbuto, il cane si siederà ugualmente. E infatti, perché quella è la cosa importante, usare le parole più che il linguaggio del corpo, perché noi a volte diciamo delle cose a parole, verbalmente, ma con il nostro corpo, con i nostri movimenti, esprimiamo esattamente l'opposto di quello che diciamo a parole. A volte sì, per esempio quando rientriamo a casa, a volte abbiamo fatto questo esempio, noi diciamo il cane ci salta addosso e noi lo spingiamo via per dirgli stai giù, in realtà spingendolo via gli stiamo dicendo giochiamo. Certo, lo stimoliamo ancora di più. Facciamo il parallelo con le persone, no? Diciamo soltanto il 7%, ma tra esseri umani effettivamente la comunicazione corporea è importantissima. Ah, per esempio, sì, in questo momento che tu hai messo via la penna e le braccia conserti, hai drizzato la schiena, stai dicendo delle cose. Che cosa sto dicendo? No, ma prima di tutto bisogna essere consapevoli del modo in cui l'altra persona si muove, no? Cioè noi in realtà, anche se siamo focalizzati sulle parole, il nostro inconscio legge la comunicazione dell'altra persona. Per esempio, quando noi andiamo in giro per strada e qualcuno ci chiede una firma oppure ci vuole vendere qualcosa, noi a volte guardiamo altrove, oppure facciamo una curva. Io guardo basso, guardo per terra. Ecco, oppure parliamo con un'altra persona che si sta a fianco, oppure una vetrina. Io faccio finta di telefonare, non c'è nessuno. Dico sì, pronto, è vero. Oppure una vetrina della quale effettivamente non te ne frega nulla diventa improvvisamente importante, no? Poi ci sono quelli schietti invece, come a volte sono io perché non c'ho tempo da perdere. No, grazie. È anche un po' scoglionata, ecco, come si dice. Quello che succede in questo caso, no? Quello che tu fai con il corpo diventa un messaggio per il tuo interlocutore. E quei pirla che invece insistono e mi vedono quei messaggi del corpo chiari, lavoro, che non me ne può fregare di meno. È il loro meno. Lavoro, e sanno che a volte insistendo possono ottenere qualcosa. Ecco, però quell'ignorare o quel fare altro è qualcosa che appartiene anche agli animali. Negli animali, certo, fare una curva, una traiettoria, guardare altrove, sono tutte cose che comunicano a noi la voglia di tenersi un po' lontane, diminuire l'intensità di interazione. Ma ascoltatori, voi pensate alla fatica mia quando ho conosciuto Vaira? Sai, all'inizio quando ci si conosce, magari un po' di flirt, così, che questo conosceva i linguaggi del corpo, io non riuscivo a nascondere, vabbè, niente. Esagera. Ma sì, ma come? Ma mi ricordo quella volta in cucina che a me mi sono girato un attimo, che ero rimasta male per qualcosa. Qualcosa, tampando, e a un certo punto io non mi sono accorta, ho cambiato completamente postura, lui da sé come e fa? E ho sorriso in realtà. Ho detto, ma perché ridi? No, poi mi ha detto, che succede? E io, niente. Sai, molto, molto Milva, niente, perché amore? E lui mi ha detto, ti faccio vedere come ti sei mossa. Ero di fronte a lui seduta al tavolo, mi sono messa di fianco, ho incrociato le gambe, ho incrociato le braccia, ho guardato la parte dei fornelli. Ecco, per me era un'insegna luminosa al neon che indicava delle cose, capisci? Guarda che sono stufa, guarda che non ne posso più, non ne posso più. Vedi, Sandra era molto più diretta anche a parole, non solo. Quindi il punto che cos'è? Che grazie alla relazione con gli animali, la relazione con il nostro animale può diventare una palestra per essere maggiormente attenti a quello che conta di più anche fra esseri umani, ed è il linguaggio del corpo. Mi raccomando, mi raccomando. Allora, se volete scriverci riguardo anche a questo argomento che io trovo meraviglioso, scrivete a chiedimi se sono felice @radio24.it. Adesso noi facciamo un attimo un riassunto sul traffico. E parleremo tra poco di nuovo un pochino di linguaggio del corpo, un pochino di alimentazione, e faremo tanto divertimento. E soprattutto un'intervista importantissima, cioè chiacchieremo con una giornalista bravissima che è Sabrina Giannini di Report sull'alimentazione degli animali. Restate con... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Non puoi capire, sai, un cane, quando si ha un cane, non t'offendere amico mio, ma sai, quando si ha un cane si è veramente sereni, appagati, non ti volevamo aggredire, ti volevamo solo far capire che il rapporto con un cane è veramente speciale, non è un legame di tipo medievale, feudatario, valvassore, né sfruttatore sfruttato di tipo marxista, capitalista, operaio, e neppure una relazione ludica di stampo infantile, passami lo yo-yo che ti do il birillo, e nemmeno una relazione genitore-figlio, mettiti il cappottino che fa freddo, né tantomeno un rapporto di vanteria borghese, il mio cane è un pedigree molto griffato. Capisci, un rapporto di fusione e trasporto al tempo stesso. È qualcosa di viscerale. E signore e signori, appassionante. Vedi, qui abbiamo, non so se vi rendete conto, ma in diretta Rosita Celentano e Pino Quartullo, che in diretta vi hanno fatto un pezzettino della loro commedia, la commedia che stanno portando in giro in tutta Italia, che si chiama Qualche volta scappano, e narra di un cane che ne ha piene le scatole nella famiglia e scappa. E abbandona i suoi padroni. Esatto. Ciao Pino! Pino Quartullo! Ciao. Allora io voglio dire di Pino... Di solito si parla sempre dei cani che vengono abbandonati. Questa è la storia di un cane che abbandona la famiglia. Finalmente si rifà mandando a quel paese dei padroni distratti, assenti, impaluisti. Tra poco, alla fine di questa intervista, sentiremo uno dei motivi per cui forse ha abbandonato questa famiglia. Però io volevo dire di Pino Quartullo, che è attore, regista, voglio ricordare. Tra l'altro, vi ricordate la voce di The Mask di Jim Carrey? È la sua, di Pino. Pino, come faceva The Mask? Ammazza, che fatica fare, preferiti. Pensano che tutti pensano che sia spumeggiante, invece è sfumeggiante. Allora, Pino ha avuto nomination all'Oscar, sì, addirittura per un cortometraggio, ha lavorato con Gigi Proietti, è Laura uscito Antonetti. Dalla scuola, tu ti sei formato con la scuola di Gigi Proietti, no? Sì, lì come attore all'Accademia Nazionale Arte Drammatica, come regista, perché ero molto bisognoso di imparare, di apprendere. Quindi mi sono... Da quanto tempo fai attore, regista di teatro, cinema? Il mio primo giorno di ripresa era il Marchese nel Grillo, parliamo degli anni 80, inizio 80. Quindi... Pensa a te, tutta questa carriera per allenarsi alla fine, cioè il clou. Per prepararmi all'incontro con Rosina. Che una palestra, cioè come i Marine, tu hai dovuto sudare, sì, perché finalmente... Arrivare qualcosa di potente, capito? Dato inaspettato. Esatto. Senti, scusa, ma fra l'altro tu hai lavorato con delle popò di gnocche, attrici italiane fantastiche anche. Sì. La Sophie Loren, a Laura Antonelli. Antonelli. No, tutte. Insomma, le, diciamo che le più belle non ti sono sfuggite. Ho fatto anche debuttare a teatro molte attrici, tra da Stefania Sandrelli a Lucrezia Lante della Rosa. A me adesso? Adesso e a me? Ora, infatti Pino mi ha chiamato e mi ha detto ma com'è che non ti hanno mai fatto fare teatro? Io ti stavo aspettando te, infatti avrei sognato tutta la vita. Sono felicissima di questa esperienza perché la commedia che stiamo facendo è veramente bella. Io a intervalli regolari durante le prove dicevo ma perché non hai mai fatto teatro fino adesso? Non riuscivo a darmi pace di questa tua follia di non aver fatto teatro prima, perché sei bravissima, c'hai una padronanza della scena che sembri che hai fatto più teatro di me, nonostante quindi... mi dimentichi. No, tra l'altro anche la critica, che tra l'altro nei confronti di Pino mi diceva a volte spietata, anche in questo caso è piaciuta la commedia, è piaciuto Pino, è piaciuta la regia ed è piaciuta Rosita Celentano. No, devo dire che Pino ha messo su una cosa veramente ad hoc, me l'ha cucita proprio su misura, è bello l'argomento, e poi è giusto, interessante, cioè non è frivolo, perché tratta una commedia francese, una commedia originale francese. Si chiama Tutu, che voi avete reso in Qualche volta scappa, no? Avete fatto un lavoro peraltro che a me è piaciuto tantissimo, anche dal punto di vista proprio cinofilo, no? Perché fa il fatto di interrogarsi, perché in fondo questa commedia, che cosa posso spiegarlo io, visto che l'ho vista un po' di meno, allora innanzitutto c'è questo cane che oltre a scappare simboleggia anche un po' l'amore dei due protagonisti, no? Che qualche volta va, qualche volta torna, fa sorgere degli interrogativi, no? Su la dimensione psicologica maschile e quella femminile, su perché si sta assieme piuttosto che no, sul tradimento piuttosto che no, sull'andare, sul tornare, sulla amicizia, sul perdono. Quindi il cane è, come in questa trasmissione che si chiama Chiedimi se sono felice, una opportunità per autoindagarsi, no? E quindi è un po' come il cacio sui maccheroni, come si dice, questa commedia per la vostra trasmissione, perché è un po' molto in pandan con quello, e soprattutto ognuno di noi, sia io che lei nello spettacolo, ognuno si identifica un po' col cane che è scappato e che vorrebbe scappare, vorrebbe tornare a Genova, vorrebbero appunto avere più libertà. Quindi c'è molta identificazione dei due protagonisti. Bellissimo. Nel cane che è scappato. Ed è questo che rende la commedia non soltanto la storia di una coppia che viene abbandonata dal cane, ma anche di due che vorrebbero abbandonarsi o magari cambiare, avrebbero desiderio di più libertà, di cambiamenti, e purtroppo invece spesso il matrimonio, la coppia è una gabbia dorata da cui tutti vorrebbero scappare in certi momenti della vita. E quindi tutti credo si possano riconoscere un po' in questi due che vorrebbero un po' essere il cane che scappa, In questo momento di crisi, come sempre accade, se viene accompagnato da riflessioni un pochino più profonde, da apprendimento, torna invece ad essere più bello di prima. Una cosa che voglio dire di Pino è che io non ho lavorato niente in teatro, questa è la mia prima esperienza in cinema, praticamente niente, ma conosco un po' l'ambiente, è sempre calmo, apparentemente calmo. Devo dire che guarda, io dentro alle fucine registi, però da Proietti ho imparato questo, che non serve fare il regista dispotico, non Bravo. Serve a niente, è controproducente, aggredire gli attori, trattarli male, eccetera, non è fruttuoso, e quindi divertendoci uno dice delle cose. No, lui, tu fai molto ridere, mi fai molto divertire anche dietro le quinte, perché c'ha sempre questa aplomb, poi dentro invece è agitato, perché ci tiene, perché deve fare la regia, perché deve pensare alle luci, perché deve pensare, tipico di chi ha passione per il proprio lavoro. Esatto, però devo dire che quest'ansia non è vero, lui non è il regista quello che strapazza gli attori e le attrici, e poi è anche uno, e io non lo facevo apposta, non mi accorgevo, perché a me mi veniva distinto a volte dire facciamo così, facciamo qua là, ma ci sono la maggior parte dei registi sono permalosi e secondo me anche un po' insicuri, che mi hanno detto in televisione più che altro, mi sono sentita dire scusa tu fai il tuo, che regista sono io, anche se magari dicevo qualcosa di funzionale, certo. Questo è tu vero, non ce l'hai, no, non solo, ma che è la decisione finale del regista, però certo. Penso che anche il macchinista teatrale o l'elettricista ti può dire una cosa che ti può illuminare, e quindi uno deve sempre sentire tutti, poi uno fa tesoro o meno delle cose che ti dicono, però questa cosa che uno possiede la verità, perché fa il regista, non la vedo così. Bravo. Ma sai che stiamo parlando di etologia, di comportamento, no? Queste sono dinamiche sociali che si verificano non soltanto tra persone, ma in tutti gli animali sociali, compreso i cani e compreso anche nel gruppo cane famiglia. Però lui ha i gatti, cioè ecco, quattro gatti. È lì che volevo arrivare. Che rapporto hai con gli animali, Pino? Io, allora, da sempre avrei voluto che la mia casa fosse l'Arca di Noè, da sempre, da quando ero piccolo. E per esempio ricordo delle fasi in cui avevo le tartarughe o avevo i criceti, La cosa che a me piace molto gli animali, non so, qualche psicanalista potrebbe anche dare una lettura sua, mi piace molto prendere le femmine e farle accoppiare e avere i cuccioli. Sì. Come una nursery. Una fargli fare i cuccioli, mi fanno pazzo di fargli vedere nascere i cuccioli e crescere. Tant'è che quando abbiamo trovato il primo dei nostri gatti, Appia, che ho chiamato Appia, che è un gatto nero meraviglioso con un bikini bianco, cercavamo un gatto bianco per far accoppiare Appia, naturalmente, e vedere cosa succedeva tra un gatto bianco e un gatto nero, come uscivano fuori. Prima di trovare un gatto bianco, cosa che poi abbiamo trovato un'altra gatta meravigliosa, che è tigrata, un po' persiana, e quindi avevamo due femmine. Poi un giorno abbiamo trovato un gatto bianco e abbiamo preso anche il gatto bianco. Pensavo di aver sistemato questo numero, la famiglia. Invece Margherita, mia moglie, che è la vera gattara, ha deciso di tenere anche uno dei cuccioli che sono poi nati da questi gatti. Cagiale, che tutto al più, bello. Che tutto più qualche ma volta ci sei c'è con l'arca di Noè, ci siamo. Senti, esatto. Ma in chiusura, visto che tra poco parleremo di alimentazione, visto che tra poco parleremo di alimentazione, ci fate quel pezzettino sull'alimentazione di Tutù nella rappresentazione teatrale? Noi prendiamo i croccantini più costosi, i migliori in assoluto. Sì, ma magari ha voglia di mangiare qualcosa di diverso dai croccantini. Anche a noi piacciono molto le patatine, ma ti rendi conto se no di essere da mangiare solo patatine fritte? Patatine di mattina, a mezzogiorno, alla sera, a colazione, a pranzo, all'aperitivo, per anni? Vabbè, ma scusa, ma noi gli diamo i croccantini perché lui c'ha l'eczema. I croccantini sono secchi, mentre ai cani piace la carne cruda, bagnata, il sangue, la cotica, strappare lembri di carne rossa con i loro canini bianchi, mentre i croccantini... E il suo eczema? Ai cani piace appoggiare i denti, i molari sugli ossi, su dei grandi ossi di bue, e noi, dato che i croccantini sono inconsistenti, gli abbiamo dato da rosicchiare degli ossi di plastica, degli ossicini grigi di plastica, è per questo che se n'è andato. Aveva fame, una fame tremenda, totale. Ma è stato il veterinario a consigliarci di dargli i croccantini? Ma lui non sa di avere il problema dell'eczema, come dice il veterinario. Non riesce a capire perché deve mangiare solo croccantini. Ma ti rendi conto che immagine del mondo ne trae? Da un punto di vista concettuale, è mostruoso quello che gli abbiamo fatto subire. E noi, nel frattempo, mica ci priviamo della carne. No, mangiamo bistecche sotto i suoi occhi, facciamo cuocere polli arrosto, spalle d'agnello, entrecotte. Gli facciamo sentire gli odori. Lui se ne sta lì fuori dalla cucina con quell'aria triste, disperata. Forse ora me ne daranno un pezzo. No, schiatta, hai l'eczema? Non avrai niente, solo croccantini. Grazie Pino, grandissimo Pino Quartullo, grazie di essere stato con noi. Chiedimi se sono felice, chiocciola radio24.it. ciao Pino, a presto. Ciao Pino, un bacio. Ti aspettiamo a teatro. Sì. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E adesso abbiamo una persona che io stimo molto. Sì. Una giornalista tostissima. Che si chiama Sabrina Giannini. E per chi non avesse ancora collegato, visto che vi ho parlato di esatto. Report di questo servizio, no? Sull'alimentazione degli animali, sulle crocchette, sul pet food. Ha creato un vero e proprio terremoto, no? Facendo sorgere la domanda, che è banale, pure uno: ma allora posso dare anche del cibo fresco, naturale al mio cane? fare, non sbaglio se gli do questa anzi, cosa. Anzi, non lo avveleno. Non lo avveleno, anzi, forse addirittura potrebbe anche stare fagli meglio. Meglio, esatto. E allora, visto che noi siamo stati mossi, no, a compassione, siamo stati mossi anche molto motivati, perché parliamo spesso in questa trasmissione appunto di cibo naturale. Per sì, cani, abbiamo per gatti. Fatto diverse puntate dove abbiamo parlato di tutti i tipi di cibi, della barf, del e a un certo crudo. Punto, sai come sincronicità, no? diceva Jung, sì. A un certo punto in un ristorante vegetariano abbiamo incontrato Sabrina Giannini e ci siamo detti, ma allora, scusa, perché non parlarne in radio e non intervistare direttamente te? Ciao Sabrina! Ciao a tutti, ciao Sabri, ciao Angelo. Adesso ciao da giornalista, adesso sei tu che vieni intervistata da noi. Va bene, va bene. Fra l'altro, visto che hai preso un sacco di premi, che bisogna dirle anche queste cose, che uno giustamente le tiene sempre riservate, però sì, io lo voglio dire. Sì, anche un sacco di cause, Rosita. Sì, Sono più i premi o più le cause? Ma, no, sono un po' più i premi, però le cause non le ho mai perse. Eccoci, quello è fondamentale. Allora, è importante questa cosa dei premi, perché secondo me è importante che venga un po' messa in luce la tua autorevolezza, nel senso che dopo questo servizio so che ti hanno attaccato in molti modi e una delle cose che mi ha fatto incazzare, scusate il termine, è stato il fatto che abbiano detto ma con questo servizio su Report passa che noi possiamo dare gli avanzi ai nostri cani, che è sbagliato, ma e invece, ecco, invece dal servizio di Report, se uno se lo segue, non passa per niente questo tipo di messaggio. No, ma questa è una, diciamo, tattica abbastanza consueta di delegittimazione, no? del lavoro di un giornalista, ma dall'altra parte denoto anche una certa povertà di argomenti, perché se uno avesse un argomento concreto per criticare la trasmissione tirerebbe fuori questo, invece è stato tirato fuori un argomento peraltro sovvertendo la verità, quando hanno torto. Quando soprattutto in questo caso non hanno argomenti, nel senso che io ho intervistato persone che avevano opinioni diverse, un veterinario che dà una classica casalinga, un veterinario che dà somministra, diciamo, la formulazione della BARF, che voi insomma sappiamo che è quella crudo, e un professore universitario che si chiama Giacomo Biasi, che addirittura si è spinto a dire, pensate un po' quale blasfemia, che addirittura non solo le diete, diciamo così, di mantenimento, come si chiamano, le diete normali, le croccantine, l'umido normale, ma addirittura le diete audiovanti, quelle di supporto alle malattie, il renal, quelle robe lì, il renal, il gastrointestinale, che sembrano assolutamente le uniche possibilità di somministrazione nei casi di patologia, non so, insufficienza renale. Sì. Ecco, l'aver detto questo, ovviamente non l'ho detto io, nessuno di noi ha detto che bisogna dare gli avanzi. Io ho fatto delle domande perché sono una giornalista, alle quali hanno risposto persone che hanno una competenza, ma vorrei anche dire una cosa, quindi se la prendano semmai col professor Biagi, che guarda caso invece non citano mai i rappresentanti, perché chiaramente è più facile colpire il giornalismo, tra l'altro il giornalismo che è libero come il nostro, anche da interferenze, da influenze degli investitori pubblicitari. Pensano sia più facile colpire il giornalismo quando una giornalista è preparata e seria come te, Milena. Mi stimolano, devo dire che mi stimolano invece a indagare ancora di più, perché io rimango basita dal fatto che gli unici argomenti che possono avere le associazioni nazionali come l'ANVI, l'associazione di categoria più corposa, no? E la FNOVI, che è quella della federazione degli ordini, che mi dicano cose, che affermino che io ho detto cose che non abbiamo mai detto, nessuno di noi ha mai detto che gli avanzi sono assolutamente preferibili al cibo industriale. Anzi, io mi sarei semmai atteso al contrario, cioè avrei visto e vedevo, speravo che questa trasmissione fosse un'opportunità per fare una riflessione. Certo. E la riflessione qual è? Ma noi siamo arrivati dopo 20 anni di marketing invasivo, perché va detto, delle multinazionali, che ovviamente quando le multinazionali arrivano in un settore agiscono secondo quelli che sono i loro legittimi canoni di marketing. Certo. Quindi cominciano con la pubblicità, poi arrivano con i dépliant da quelli che sono ovviamente gli specialisti del settore, in questo caso i veterinari, ma quando la Nestlé vendeva il latte in polvere arrivava dai pediatri, no? Certo. Quindi adesso arriva con i dépliant veterinari, ma questa è voglio dire, la ILS, che fa sempre parte di una multinazionale che è la Palmolive Colgate, cioè scrive dappertutto il più consigliato dai veterinari, il più raccomandato dai veterinari, cioè voglio dire che qui c'è una sorta di aderenza totale, ormai devo dire quasi totale, da parte dei veterinari. Soprattutto devo dire, io sono convinta che la maggior parte dei veterinari invece sia completamente in buona fede, perché non ne sa nulla. No, c'è un vulnus, c'è proprio un vuoto informativo, cioè l'università non li prepara se non appunto il corso del professor Biagi e pochi altri, nonostante noi si abbia tra l'altro il maggior numero di facoltà veterinarie al mondo, credo, per anche questa è un'anomalia, che vabbè è un altro argomento. Però voglio dire, è possibile che ci sia questo vuoto? È chiaro che poi la gente va, noi che abbiamo cani e gatti, andiamo da veterinari e i veterinari ci dicono dia questo perché è bilanciato. Ci fidiamo. Ma io mi dico una cosa, ma mi piacerebbe sentire un veterinario che mi dice: guardi, io le do le due alternative, questo e questo. Ma la domanda che io faccio ai veterinari: sanno formulare una dieta casalinga? Sì, bravissima. Infatti questo è il punto. Quindi abbiamo detto, ti hanno attaccato in diversi modi. Quando c'è pochezza di argomenti cominciano a dire vabbè, ma allora qui stiamo consigliando gli avanzi, il che non è vero, perché non è mai stato detto. Abbiamo detto il contrario, abbiamo fatto dire al professor Biagi che gli avanzi non vanno bene, bisogna dare degli indicatori perché deve essere tutto bilanciato. Esatto. Ma dire che la dieta casalinga non è bilanciata è veramente... Noi siamo arrivati all'assurdo. Siamo arrivati a inventarci che il pet food, cioè il cibo industriale, sia addirittura preferibile. Esatto. È esattamente il contrario. Sì, esatto. Cioè, io mi sarei aspettata da cliente, no, di veterinari, che mi si dicesse, anzi soprattutto da questi rappresentanti di categoria, io se fossi una veterinaria comincerei anche a farmi delle domande, certo. Perché io dico, com'è possibile che l'Associazione Nazionale Veterinari non faccia un rilievo sulla trasmissione di quelle che sono le criticità del pet food, cioè le micotossine, i conservanti? Io mi sarei aspettata e mi aspetterei che una categoria metta in allarme semmai i suoi associati sull'uso di certi pet food. Mi aspetterei anche che non ci fosse un conflitto di interessi palese, perché dico solo questa cosa che mi sembra fondamentale: sono stata accusata, come dire, no, l'Associazione Nazionale Veterinari, Melosi, Scotti e Compagnia Vella, cioè che sono poi il direttivo, che ha diramato prima un comunicato dicendo il falso, e io adesso infatti loro minacciano. E che io ho detto, noi abbiamo detto che sono meglio le avanti. Ecco, questo, secondo me, questo è un falso, certo. E siccome è un falso io l'ho commentato, e a questo punto, visto che loro minacciano chissà quali querele, semmai sono io che devo minacciare e devo sentire il mio avvocato per querelare loro. Però il punto a me veramente interessa è preme la salute dei cani e gatti e soprattutto la trasparenza. Perché l'Associazione Nazionale Veterinari paragona la loro libertà e la loro scienza e coscienza, nonostante ci siano ci siano degli investitori pubblicitari, ad esempio nella formazione della Scivaca, che è la società scientifica che organizza i corsi, per esempio, no? Ma c'è una certa differenza. È vero che la pubblicità c'è nella RAI, a parte il fatto che i soldi della pubblicità della RAI magari andassero a me, perché sarei ricca. La maggior parte dei soldi, io prendo i soldi e sono felice di prendere i soldi, i pochi soldi che mi danno per il canone. Ma soprattutto, onesti, capito? Perché prendere i soldi onestamente ci si deve vergognare. Sì, ma anche se fosse, io posso anche prendere i soldi, ma io non sono sponsorizzata da queste persone. Certo. C'è una bella differenza. Cioè, io non ho un banchetto fuori dalla redazione in cui vendo il pet food. Certo. Mentre i veterinari hanno il pet corner in cui lo vendono, cioè loro prescrivono, o meglio suggeriscono, il renal, il gastrointestinal, e poi dicono: guardi, lo può comprare da noi. Ma l'associazione si rende conto di quello che sta dicendo? Si rende conto del paragone che ha fatto? Si rendono conto che la società scientifica che organizza i corsi di formazione o i convegni viene sponsorizzata da queste aziende? Come possono loro... Io chiedo ai veterinari in onda: ma voi quando siete andati nei corsi di formazione, io vorrei che mi ascoltassero i veterinari, provate a domandarvi perché non trovate quasi mai un intervento di qualcuno, se non raro, perché immagino che ci siano anche stati, perché devono anche in qualche modo dimostrare, no? Certo. Ma a fronte magari di un intervento di qualcuno che magari può essere lo stesso Giacomo Biagi, no? Il professor Biagi, in cui dice che si può formulare una dieta di supporto adiuvante ad una malattia che può essere renal, così anche con i prodotti freschi. Eh certo, cioè io veterinario vado ad un convegno sull'alimentazione, certo. È possibile che non mi trovi qualcuno che mi insegna, esatto. Oltre a dirmi prescrivi questo mangime, mi insegna a formulare una dieta, perché insomma è come il mio papà o come tanta gente che va dal medico, purtroppo magari ha un problema che può essere non so, appunto renale, può essere una qualsiasi disfunzione organica, e allora il medico che cosa fa? Gli prescrive una dieta adatta a quel tipo di disturbo, gli dice allora mangiati il mangime. Senza contare che poi forse tutte queste malattie che oggi gli animali hanno derivano proprio da quel tipo di mangiare. Questo è un altro questa è un'altra delle cose che io da veterinario, se io fossi veterinario, che peraltro avrei voluto anche fare veterinario da giovane, però il discorso secondo me è importante capire come i veterinari si sentono a questo punto, si facciano una domanda, ma noi siamo veramente formati? Cioè la Shivac, esatto. Io ho chiesto il bilancio della Shivac, la Shivac è una società dove ci sono dei soci, quindi certo. Prendono i soldi da questi da queste aziende, anche quelle dei farmaci peraltro. Ma come organizzano questi convegni? Sulla base di quale libertà scientifica la organizzano? Possono parlare in modo critico del pet food? Io lo posso fare, anche se ci sono le persone pubblicitarie. Io lo posso fare perché sono una giornalista libera, mi prendo le responsabilità di quello che faccio, ma non vendo e La RAI fa la pubblicità della Purina, allora tu sei costretta a non parlare di queste cose. Ma anche loro probabilmente non sono costretti, ma io in cuor mio dico in scienza coscienza. Diciamo che dovrebbero avere un po' più di coscienza. Io non mi faccio influenzare, ma loro, andiamo a vedere nei fatti, quante volte in decenni di convegni hanno parlato di diete casalinghe? Questi sono i fatti, Non c'è bisogno di andare a raccontarsi la rava la fava. Allora dobbiamo chiudere. Sabrina, per... aspetta un secondo che diamo il traffico e ricontinuiamo subito tra dopo. Tra poco con una veterinaria, peraltro, che tu hai già intervistato. Tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Bene, stavamo parlando con Sabrina Gennini, giornalista di Report, sul servizio che è stato fatto qualche settimana fa, Report sull'alimentazione per gli animali, sul pet food. Sì, siamo giunti alla... ci stavamo appunto interrogando sul fatto che alcuni veterinari insomma sono stati formati dicendo loro guarda devi prescrivere, indottrinando un po' su quello che è, cioè, il mangiare industriale, non è stata industriale. Fornita un'alternativa, sembrerebbe, sì. Allora che cosa abbiamo fatto? Oltre a Sabrina, che risalutiamo, ciao Sabrina che è ancora con ciao noi, ciao a tutti, sì. Abbiamo chiesto a Michela Pettorali, che è stata una dei veterinari intervistati da Sabrina proprio nella trasmissione Report, di essere con noi in questa intervista. Ciao Michela. Ciao Angelo, ciao Rosita, ciao Sabrina. Quindi, ciao Michela a Pettorali, tutti. Veterinaria che hai un ambulatorio, no? Quindi hai a che fare con cani, gatti, certo, prescrizioni cani, di gatti soprattutto, certo. Ecco, certo. E quindi dopo il servizio di Report ti sei fatta delle domande? ti sono sorte delle domande? Che è successo? Ma assolutamente, dopo il servizio di Report si è aperta una voragine in qualche modo, diciamo che più o meno sempre io avevo consigliato, perlomeno vedevo chi era più propenso anche a dare una dieta casalinga al proprio animale, e a quel punto, visto che la mia formazione in questo campo era praticamente nulla, proprio per la mancanza di formazione anche a livello universitario, è vero che io mi sono laureata tanti anni fa, per cui forse molto probabilmente le cose sono cambiate. Però mi contattavo la mia nutrizionista di fiducia e le poche persone che volevano una dieta casalinga facevo formulare appunto una dieta. Certo. Le altre un po' per mancanza di tempo, un po' perché io comunque non ero motivata a spingerle a una cosa del genere e non ero nemmeno motivata io perché non avevo appunto la formazione, prescrivevo naturalmente la dieta commerciale, mantenimento... Il problema poi era soprattutto quando c'erano delle patologie in corso. A quel punto io non avevo quasi nessuna scelta. Certo. Ogni tanto ho chiamato appunto la nutrizionista e la maggior parte delle volte ti ritrovi anche per paura, perché hai paura proprio di sbagliare, a prescrivere le diete commerciali medicate o comunque adeguate. Certo, perché per diciamo le patologie. Che se un proprietario di un cane che ha una particolare patologia ha necessità di una dieta specifica e per quella dieta specifica è stato fatto un mangime, no? Quindi proprio il veterinario possa prescrivere, uno ha quasi paura che se non prescrive il mangime, quello lì invece della dieta naturale, il cane specifica, il cane anche poi sta peggio, esatto. Capito? No, oppure che si arrabbi il proprietario e dice ma come, certo, ma tu non mi hai dato il mangime, certo. E invece si può formulare tranquillamente una dieta specifica, come succede in umana, no? Assolutamente, assolutamente. Cioè, medico... E infatti poi sono partita da quel pensiero lì e ho pensato, ma se io vado dal mio medico e mi dice che mi devo alimentare tutta la vita di scatolette e conservanti, ma lo trovo giusto o lo trovo sbagliato? Esatto. Perché lo troviamo giusto per gli animali e non lo troviamo giusto? Perché... Scusami, no, dicevo che poi da tutto questo, anche dal servizio di report, io già ero un pochino preparata sul fatto di dare da mangiare, il mangiare fresco ai nostri cani e gatti, però ho una corsia preferenziale con Angelo che lavora con i cani da tanti anni, ma semplicemente la cosa che viene in mente è questa: se tu, produttore anche di pet food, non hai nulla da nascondere perché il tuo pet food è sano, comunque quello che c'è nell'etichetta è quello che corrisponde e non fai dei giochi di parole per fregarmi o per un profitto, senza pensare veramente a fare qualcosa di buono per il cane, a questo mondo c'è spazio per tutti quanti, quindi dovrebbero essere queste cose qui anche dei servizi che spronano a fare sempre meglio, non a cercare di fregare sempre di più la gente con giri di parole. No, perché poi ricordiamo questa cosa qua, che quando viene scritto carne di pollo, sì, c'è il 4%, c'è il 4%, e il 5% sì, è carne di pollo, il resto sì, è altro, e su questo... Senza considerare che io, avendo una certa età, avendo 50 anni, ricordo che quando avevo 15 anni raccattavo tutti i cagnolini randagi, gli davamo veramente i nostri avanzi, che però erano avanzi non ammuffiti, quindi c'era un po' di pane che si smosciava con l'acqua, ci mettevi gli avanzi della carne, della pasta, e io ho cani che sono campati 20 anni, certo io non faccio media perché sono una persona, ma... No, diciamo che questo è il messaggio che noi non vogliamo far passare, cioè non vogliamo che la gente a casa oggi gli dia gli avanzi. Il messaggio che deve passare non è che devi dare gli avanzi, no, certo, anche che perché no, altrimenti trovi chi gli dà l'avanzo di cacio e pepe, certo, del pranzo, e naturalmente sappiamo che non va che bene. Non va bene. Però in questi giorni, ma anche già prima, io mi ero messa insomma a guardare un po' come si formulano le diete, anche perché, come ti ripeto, quando ho fatto io l'università, l'unico esame che c'era di nutrizione animale era soprattutto, solo ed esclusivamente, su bovini, cavalli e ovini. Vedi. Quindi quando arrivavi a parlare di alimentazione di cani e gatti, fai vabbè, tanto ci sono le ditte, stanno crescendo, fanno il cibo loro, è perfetto. E veramente non mi sono mai posta il problema più di tanto. Mi sono messa a studiare, a leggere libri, ora ho visto, vabbè, ma quantomeno, anche se non sono una specialista, perché naturalmente io non mi metto a formulare una dieta per un'insufficienza renale, non mi sento pronta, però anche se non sono una specialista, una buona dieta di mantenimento, mi sono resa conto che è possibile. È per possibile. Tutti quindi in pratica stiamo continuando a studiare per tantissime cose, non vedo perché non studiare anche, certo, sull'alimentazione. Abbiamo delegato tutto questo ramo, che comunque fa parte dovrebbe far parte del nostro bagaglio culturale, certo, e da medico, l'abbiamo delegato alle grosse multinazionali. Oppure prima o poi, sono convinta, se lo prenderanno i biologi pure questo, come si sono presi anche tutto il bagaglio della nutrizione umana in qualche modo. Vedi. No, sì, ma infatti questa è la cosa importante, cioè c'è spazio per tutti, come diceva Rosita, no, non è che vogliamo demonizzare adesso il pet food, no. Il punto è riuscire a far insorgere nelle persone una cognizione di causa, cioè perché sto dando questo tipo di alimentazione al mio cane, è quella che veramente ho scelto, e poi la possibilità di scegliere, o non mi hanno dato scelte, mi hanno detto no, guarda, è questo, punto e basta. Quindi certo. E Michela, questa la veterinaria che è con noi oggi, dopo il servizio di report, già un pochino prima, ma dopo il servizio di report a maggior ragione, è sorto questo dubbio, sono risolte delle riflessioni, e hai ripercorso a ritroso la tua formazione di veterinaria, ed è per questo che io ci tengo a sottolineare questa cosa, perché che ci staranno ascoltando dei veterinari, no? E allora noi vogliamo dire che non siamo assolutamente contro loro, anzi il punto è che a me dispiace perché tanti amici veterinari li ho perché faccio questo lavoro da tanto tempo. Agivano così in buona fede, ma io lo so che cioè, tanti veterinari fanno il veterinario perché amano gli animali, quindi non è che prescrivono il mangime perché vogliono fregare, pensando di fare del male, ma assolutamente ognuno di noi finora l'ha fatto in perfetta buona fede. Ognuno di noi non è che l'ha fatto perché era colluso con le ditte mangimistiche, anche perché poi noi, la maggior parte di noi francamente siamo dei poveracci, quindi essere collusi con le ditte mangimistiche insomma dovrebbe voler dire altre cose, non questo. No, infatti. Quindi non, cioè assolutamente. La preoccupazione. Di più comunque, la preoccupazione che è venuta fuori, che tutti ora vogliono dare avanzi di casa, è assolutamente infondata. No, i clienti che io ho avuto negli ultimi 15 giorni non sono venuti da me a dirmi voglio dare al mio cane cacio e pepe o la matriciana, sono venuti da me a dirmi per favore mi fai una dieta casalinga. Certo, ma certo, ma perché il privato che ama il cane, che ama il cane o il gatto, vuole che il cane e il gatto stia bene. Come pensa? Perché io stesso ho fatto sta cosa anni fa, quando sono arrivati i primi sacchi di crocchette mi dicevano guarda c'è tutto dentro, è bilanciato di calcio, di proteine, di vitamine, sì, quindi dici, cazzo, e in più è comodo perché apri una busta, la svuoti nella ciotola, è bella che è fatto. Quindi questo è anche un po' come dare le merendine preconfezionate ai bambini. È una mentalità sbagliata in generale che bisognerebbe tornare a far da mangiare anche a casa. Certo. Allora, ci mancano 2 minuti, abbiamo ancora Sabrina Giannini con noi, aiutateci a fare una ricapitolazione, una chiusura che a voi, che piaccia anche a voi insomma. Quindi questo servizio è stato utile perché ci ha aperto gli occhi, no? E ci permette anche di dire ai veterinari, come dicevo ne ho tanti di amici veterinari che si dicono beh effettivamente se io faccio le cose con cognizione di causa mi piace avere una scelta e prendere anche coscienza del fatto che posso prescrivere una dieta naturale. In questo caso, allora chiedano ai veterinari che sono anche secondo me la quasi totalità in buona fede, chiedano ai loro rappresentanti dell'ANVI e della federazione, la FNOVI, che mi hanno tanto attaccata, se è dignitoso andare ai corsi di formazione e avere sempre soltanto una campana da ascoltare. Chiedano ai loro rappresentanti perché insistono tanto su una sola linea e non aprono invece a quella che dovrebbe essere invece, quella sì, una formazione qualificante per una categoria. Chiedano ai loro rappresentanti se è dignitoso concedere, come è già avvenuto ahimè in Francia, addirittura l'esclusiva per la vendita delle diete, quelle diciamo... Ecco, che io non vorrei che si ripetesse. Chiedano se è vero o non è vero che l'ANVI fa dei giri formativi con Arca Planet, che è la più grande distribuzione, e se questo è dignitoso. Chiedano alla federazione come mai solo dopo il mio servizio si sono messi, oltre a criticarlo ovviamente inventandosi sempre la cosa della scusa degli avanzi, come mai la federazione soltanto oggi dice proveremo a chiedere più trasparenza nelle etichette. Beh, ma stiamo scherzando? Dopo 30 anni di marketing che delle multinazionali, non solo delle multinazionali, oggi la Federazione degli Ordini Veterinari scopre che non c'è trasparenza nelle etichette. Guardate che quella trasparenza è un danno soprattutto ai veterinari, perché i veterinari in buona fede suggeriscono qualcosa di cui non sanno neanche le componenti. Quando io ho telefonato, facendo ovviamente la cliente, al call center della Royal Canine, loro ti dicono che c'è, a differenza delle altre, perché gli altri neanche ammettono di avere dentro i conservanti chimici quando li hanno. La Royal Canine lo dice, abbiamo il BHA, che è un conservante considerato potenzialmente cancerogeno dalla IARC. Bene. E poi io gli ho detto, scusi, ma perché non lo scrivete? Ah, ma tanto i veterinari lo sanno. Ho detto, ah sì, ai veterinari lo dite. Non è vero che lo dicono i veterinari. Non lo dicono. Questo è il punto. I veterinari devono domandarsi che rapporto devono avere veramente, secondo me critico, perché queste persone fanno ovviamente i loro interessi, certo. Però attenzione, facciano bene i loro interessi, i veterinari devono fare gli interessi e lo fanno in buona fede dei loro pazienti. Seconda cosa, chiudo, la cosa secondo me è che io da giornalista ho notato la mancanza totale di trasparenza di queste aziende, non mi hanno mostrato le loro materie prime, non mi hanno mostrato i loro stabilimenti, non mi hanno mostrato i centri di ricerca, perché e vorremmo anche parlare i cani. Di quello, come tengono i cani e gatti assaggiatori, certo, come mai non li mostrano? Ma perché certo. Le associazioni varie non si pongono anche il problema etico? Terza cosa, i professori universitari spesso sono consulenti di queste aziende, di queste multinazionali. E quindi io non andranno, certo. E vi dico solo questo per chiudere, perché la dice tutta. Ed è una cosa che io dico adesso, in questo momento, ai veterinari che mi ascoltano. Allora, io ho chiesto alla Nestlé, come a tutte le altre multinazionali che formulano queste diete, di parlare con i loro nutrizionisti, e loro mi hanno detto no. Già questo dimostra che hanno certo, qualcosa da nascondere. Giusto, oltre a non farmi vedere i loro centri di ricerca, anche lì, no? Che ovviamente i veterinari non vengono mandati a Losanna o in Cina, ma vengono mandati dirottati ad Amiens, come ho detto sì, io. Quindi sì. Secondo me presi in giro, perché non ti fanno vedere i centri di ricerca. Tu veterinario dovresti poter entrare in qualsiasi centro di ricerca, non soltanto in quello. Chiedano, perché io vorrei che tutti i veterinari facessero come ho fatto io, chiedano oggi in massa, fatemi vedere il centro in Cina, fatemi vedere il centro a Losanna e alla Royal Canin, fatemi vedere il centro in Francia di Montpellier, quando però voglio io, non quando organizzate voi i vostri certo, tour. Questi certo. Veterinari dovrebbero chiedere per la dignità professionale. Ultima cosa, quando ho chiesto a tutte queste multinazionali di parlare con i loro nutrizionisti, sapete cosa mi ha risposto una di loro, cioè la Nestlé? Parli con il professore universitario, tal quale un professore universitario, cioè, ma io devo parlare con un consulente della Nestlé? È un professore che fa formazione. Guardate che questo, anche in scienza e coscienza, perché questo professore magari fa i suoi corsi benissimo, sì. Ma scusate, ma io parlo con la grande multinazionale che ha e fa parte di quelli che guadagnano 2 miliardi l'anno su qualcosa che potrebbe non esistere, perché esiste il cibo fresco, sì. Bene, ma un professore universitario in scienza e coscienza veramente che cosa insegna ai suoi studenti? Ai suoi studenti. Bene. Guarda, Sabrina, grazie, Sabrina fantastica. Giannini. Grazie mille, Sabrina Giannini. Report, grazie a Michela Pettorali di essere state con noi. Esatto, io intanto vi ricordo, per chi volesse scriverci, la nostra mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, e la prossima puntata speriamo che Sabrina faccia un bel servizio sulle sui vaccinazioni farmaci. E sui farmaci. Grazie, a presto.